Diamo inizio a questa nostro redazionale che parla della liberazione di Roma. L'anniversario, il 70° anniversario è stato 3 giorni fa, il 4 giugno 1944, gli americani entravano nella capitale provenienti dal fronte sud, quindi provenienti dalla via Casilina, e entravano questa lunga fila di mezzi corazzati e le prime avanguardie, diciamo così, dell'esercito americano. Di questo c'è ampia ormai documentazione di immagini, di scritti, eccetera eccetera, e come sempre succede, proprio perché la storia la scrivono i vincitori a scapito non soltanto dei vinti ma anche di coloro che a quegli avvenimenti hanno partecipato in diverse forme e che non avevano magari le stesse idee, le stesse intenzioni dei vincitori, di quelli che poi sono risultati i vincitori per eccellenza. Insomma, qui si tratta di un po' ridurre l'impatto terribile che viene proposto sempre dai mezzi di comunicazione, da una certa storiografia, secondo cui, insomma, se non ci fossero stati gli americani, qui le cose sarebbero andate molto male, non solo per quanto riguarda Roma, ma evidentemente per tutta l'Italia. Cioè, l'Italia liberata dagli americani è un altro di quegli stereotipi che si è fatto strada nel tempo a scapito di quell'altra verità altrettanto forte e altrettanto, direi, più radicata nei sentimenti della popolazione italiana, almeno di una larga parte di essa, per cui l'apporto fondamentale alla liberazione dell'Italia è stato dato da chi a un certo punto decise di impugnare direttamente le armi contro i fascisti e contro i tedeschi. E lo stesso ragionamento in qualche modo vale anche per la città di Roma. Detto questo, insomma, prima di arrivare al giugno, e proprio per illustrare un po' a chi ci ascolta, chi non ha avuto modo magari di avere i racconti diretti dai propri genitori per motivi di età, perché genitori troppo giovani, diciamo così, fortunatamente, e di quello che è stato il periodo dell'occupazione nazista della città, perché a un certo punto Roma fu dichiarata città aperta, no? Dal governo Badoglio in particolare, il che permise sostanzialmente ai tedeschi di occupare militarmente la città, così come avevano del resto occupato larga parte dell'Italia proprio all'indomani già del 25 luglio del 1943, data in cui formalmente Mussolini dà le dimissioni, si rega dal re, dalle dimissioni, quindi la gente si riversa in strada, il fascismo è caduto, è finita la guerra, insomma, no, l'Italia stava in guerra, non va mai dimenticato, insomma, milioni di italiani erano nelle diverse situazioni di conflitto, chi prigionieri, chi non era più tornato e dava più notizie e non sarebbe più tornato, pensiamo solo alla spedizione di Russia, tante altre, insomma, è inutile. Diciamo in questo, all'economia di questa nostra trasmissione, dilungarsi su questo, ma due o tre cose vanno focalizzate, e quindi una è sicuramente il fatto che all'indomani del 25 luglio del 1943, caduta del formale, non sostanziale, del fascismo, diciamo così, da un lato si creano queste aspettative di speranza di pace, di liberazione, insomma di fine del fascismo, e dall'altro però si assiste a una continua avanzata, continuo rafforzamento della presenza militare tedesca in Italia, quindi Hitler manda parecchie divisioni militari, divisioni corazzate soprattutto qui in Italia, proprio per rafforzare il centro-sud del conflitto bellico, dato che gli americani, insomma, ai primi di luglio erano già sbarcati in Sicilia e cominciava questa avanzata. C'era pure nell'aria, qui insomma c'è lunga storiografia anche su tutti questi aspetti che portano all'armistizio dell'8 settembre, c'era già nell'aria, insomma, i contatti c'erano stati da parte di plenipotenziari di Casa Savoia, più che di, ovviamente non del governo Mussolini, di Casa Savoia, quindi non da parte del fascismo, verso gli americani, approcci eccetera eccetera, per cui insomma i tedeschi avevano perfettamente capito che qui c'era, si stava preparando questo armistizio dell'Italia con gli alleati, e questo non fa che da un lato esacerbarli, insomma incattivirli, dall'altro pone la necessità appunto del tutto il rafforzamento dell'apparato militare tedesco qui in Italia, e con particolare riguardo per la capitale, per ancora il significato che la capitale assumeva in quel periodo, ancora c'era formalmente insomma un potere politico centrale, anche se poi con la creazione della Repubblica Sociale, ma questo avviene dopo, insomma tutto si sposta al nord. Detto questo, che cosa succede? Insomma, queste aspettative, prima ancora di arrivare scusate alla proclamazione formale dell'armistizio, che succede tra il 25 luglio del 1943 e l'8 settembre del 1943? Come dicevo, immediatamente dopo le dimissioni di Mussolini, Pippetto, Vittorio Emanuele III, nomina Badoglio capo del governo. Quindi è un governo di nomica che insomma è forse tra i peggiori che si potevano immaginare in quel momento, non solo per la figura del suo capo, il maresciallo Badoglio, insomma noto già alle cronache e soprattutto per le guerre portate dall'Italia all'estero, soprattutto in Africa, in Libia, in Abissinia eccetera eccetera, ma anche per il suo essere non solo fedele alla monarchia, ma nella sostanza continuatore di quello che era l'atteggiamento delle politiche mussoliniane. E il primo atto di questo governo Badoglio consiste in una circolare fatta, che porta il nome del generale Mario Roatta, perché poi ne fu l'estensore materiale, ma ovviamente aveva tutta l'approvazione del capo del governo, cioè di Badoglio. E questa circolare dice, è del 27 luglio del 1943, quindi due giorni dopo la caduta del governo Mussolini, la circolare dice questo, proprio a smentire completamente le aspettative che pure si erano create nella popolazione di pace, di fine del fascismo, insomma di fine di quel periodo. Dice la circolare: nella situazione attuale, qualunque perturbamento dell'ordine pubblico, anche minimo e di qualsiasi tinta, costituirà tradimento e può condurre, ove non espresso, a conseguenze gravissime. Ogni movimento deve essere inesauribilmente stroncato in origine. Siano assolutamente abbandonati i sistemi antidiluviani dei cordoni, degli squilli, delle intimazioni e della persuasione. Le truppe procedano in formazione di combattimento, aprendo il fuoco a distanza, anche con mortai e artiglieria, senza preavvisi di sorta, come se si procedesse contro il nemico. Non si tiri mai in aria, ma a colpire come in combattimento, e chiunque, anche isolatamente, compia atti di violenza contro le forze armate, venga immediatamente passato per le armi. Mentre il militare impiegato in servizio d'ordine pubblico che compia il minimo gesto di solidarietà con i dimostranti e non obbedisca agli ordini, venga immediatamente passato per le armi. Voi capite che questo, insomma, non lasciava dubbi alcuni su qual era l'intenzione del governo Badoglio. E in effetti ci furono migliaia di morti in quel periodo, già tra il 25 luglio e l'8 settembre, parliamo di 45 giorni grosso modo, e altrettante migliaia di arresti. A questo proposito, siccome noi tutta questa ricostruzione l'abbiamo fatta da varie fonti, ma in particolare l'abbiamo utilizzato per quanto riguarda Roma, Cesare De Simone, Roma città prigioniera, e poi gli scritti di Zangrandi, 25 luglio 8 settembre 1943, che resta ancora quello, sia sulla mancata difesa di Roma, sia su tutti i preamboli dell'armistizio, forse uno degli autori fondamentali, e poi qualcosa anche da Dario Pacino. E a questo proposito, cosa scrive proprio su quel periodo del 25 luglio Ruggero Zangrandi? Dice: il motivo vero e centrale che ispirò il comportamento di coloro che ebbero il controllo della situazione durante i 45 giorni batogliani dal 25 luglio all'8 settembre, al di sopra della paura fisica e di ogni altro fattore psicologico e personale, fu la preoccupazione di impedire a qualsiasi costo che il popolo potesse intervenire da protagonista, prima nella scia del 25 luglio e poi dopo l'armistizio, combattendo e insorgendo contro i tedeschi. Il primo obiettivo fu raggiunto instaurando un regime di feroce terrore a partire dal 26 luglio, abbiamo letto adesso appena la circolare Rovatta, che sfruttò appieno l'apparato repressivo fascista, rafforzandolo con quello militare. Provocò centinaia di vittime in sparatorie nelle strade e nelle carceri, portò a migliaia di arresti, processi e condanne e riuscì così a tenere a bada ogni fermento popolare. Questo quindi è il presupposto, diciamo così, di quello che poi avvenne l'8 settembre con l'armistizio, che fu ancora una volta anche lì una decisione, non quella dell'armistizio ma del comunicato che fu reso pubblico alla popolazione, di estrema ambiguità, che causò dei disastri proprio nel vero senso della parola. Ma nel frattempo gli alleati intensificavano le loro azioni militari su tutto il fronte italiano, e non a caso i bombardamenti erano già cominciati, insomma c'erano città in Italia che ne avevano subiti già parecchi, insomma quelle del nord come alcune del sud come Napoli, insomma, che erano state fortemente bombardate, ma Genova, Torino, Milano certamente tra le più famose, e tutti pensavano che Roma fosse esente da questo problema. Roma, la città cristiana, la sede della cristianità, Roma capitale, Roma imperiale, delle antiche cose, come si fa a colpire una città, insomma, mettendo a rischio tutte queste caratteristiche, e invece no, insomma, gli alleati con molto pragmatismo se ne infischiano, diciamo così, o meglio, usano l'arma dei bombardamenti come arma di pressione. Ripeto, i colloqui erano già cominciati, i primi approcci erano già cominciati per l'armistizio, e il 19 luglio del 43 c'è il primo bombardamento su Roma, e qui a San Lorenzo, proprio da dove trasmettiamo noi, sicuramente ci sono ancora tanti che se lo ricordano, se non altro perché c'è il parco intitolato ai caduti. E quel 19 luglio, insomma, il bombardamento fu terribile, i morti accertati, quelli che si contano lì nella piazza qui a San Lorenzo, sono, mi sembra, poco più di 1000, ma insomma le stime dell'epoca sono molto molto più alte, perché insomma il bombardamento fu fatto da oltre 500 aerei, insomma, che si concentrarono soprattutto su questa zona, sullo scalo San Lorenzo, ma le vittime nel civili furono enormi, perché parecchie bombe colpirono proprio le abitazioni, insomma si parlò all'epoca da 2800 e 3200 vittime ancora oggi, ma ripeto, quelli poi che stanno conteggiati qui nel parco di San Lorenzo, intitolato proprio ai caduti del 19 luglio, a questo bombardamento, sono, mi sembra, poco più di 1000. Che cosa avvenne dunque successivamente? Qui arriviamo alle giornate che poi riguardano più direttamente non solo l'inizio della resistenza, e quindi l'annuncio dell'armistizio dato l'8 settembre, ma l'armistizio, anche qui va ricordato sempre e sottolineato, era stato firmato il 3 settembre a Cassibile tra i rappresentanti della monarchia e gli alleati americani. Cassibile è in Sicilia, però il governo italiano, insomma il re, la monarchia tardavano, le autorità italiane tardavano a darne annuncio, e gli americani allora cominciarono di nuovo, anche qui insistettero con i bombardamenti, ce ne furono altri, insomma, no, come arma di, finalmente, insomma, si fa per dire, finalmente questo annuncio viene dato, ma viene dato nella forma più ambigua possibile, insomma. E lo speaker, il breve comunicato ripetuto ininterrottamente dalle radio, dalla radio di Stato, concludeva, diceva che insomma per porre fine alla guerra si era arrivati a questo, a sottoscrivere l'armistizio con gli alleati, e di conseguenza, diceva alla fine, devono cessare le ostilità contro gli alleati, e viceversa devono essere le forze armate italiane, devono rispondere a qualsiasi altro, se fatte segno, devono rispondere con le armi. La frase esatta è questa, dice il governo italiano, ve lo leggo perché è sintomatico: il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria nell'intento di risparmiare ulteriori e gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. E questo fu la frase proprio che gettò nel panico milioni di persone, e soprattutto gettò nel panico gli stessi militari italiani che si trovavano nei diversi situazioni di combattimento. Dov'è il telefono? Cosa dammi il gettone? Su, presto, chi è che spara? Su, dai, vecchio. Ma chi spara? Mamma, sono sbarcati mia. Dammi la linea militare, presto. Il signor colonnello. Signor colonnello, tenente Innocenzi, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani. No. Allora tutto è finito, signor colonnello. Ma non potete avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare. Mi scusi, signor colonnello, ma cerchi di comprendere. Io ero all'oscuro di tutto. Quali sono gli ordini? Ecco, questa l'abbiamo voluta ripetere, questo breve, mancano le immagini ovviamente, questo breve discorso che fa, insomma discorso, questo breve colloquio che ha Alberto Sordi nel film Tutti a casa, che impersona un ufficiale dell'esercito italiano che proprio la mattina dell'8 settembre vede che i tedeschi gli sparano contro, insomma lui dice, ma insomma noi siamo alleati, dice, ma che è successo, i tedeschi si sono alleati con gli americani tutti contro l'Italia, insomma sembrava una cosa assurda, qui viene messa in modo grottesco, ma effettivamente per molti bisogna insomma cercare di immedesimarsi in quella situazione, per molti fu veramente un disastro, fu veramente non solo un'enorme confusione, ma la mancanza di ordine, la mancanza di direttive concrete, esplicite, fu causa anche di situazioni che potevano essere viceversa gestite in un modo diverso, come appunto quella della difesa di Roma, insomma. Difesa di Roma che comincia l'8 settembre, e ci entreremo nel merito, questo per capire poi come si arriva effettivamente alla data del 2 giugno 44, ma difesa di Roma che in particolare Cesare De Simone ha dedicato un ampio periodo della sua vita, insomma scrivendo più di un libro, in particolare questo Roma città prigioniera, in cui tende a sottolineare un fatto, insomma la capacità di questa città non solo di resistere ma cercare di contrattaccare in questa situazione di abbandono completo da parte delle autorità di qualsiasi tipo. Il CLN si andavano formando, le brigate partigiane ancora erano di là da venire, sarebbero venute di lì a poco, ma ancora il comando unificato delle brigate partigiane era ancora da costituirsi, quindi tutti gli embrioni di resistenza che potevano esserci tra chi era già schierato contro il fascismo e altri che si erano avvicinati agli ultimi tempi e chi lo faceva proprio sull'onda di queste situazioni così terribili, era dovuto soprattutto alla volontà di combattere i nazisti, che in quel momento diventavano veri e propri occupanti, e di liberarsi definitivamente dai fascisti. Per cui, scrive De Simone, la guerra di Roma contro tedeschi e fascisti è uno sterminato mosaico di episodi, molti dei quali, e non di secondaria importanza, ancora oggi sconosciuti. La città ha fatto una guerriglia di élite con le armi in pugno, ma anche una guerra di massa, altrettanto dura ed eroica, quella disarmata di chi odiava e sopravviveva, soffriva eppure non si piegava a lusinghe e ricatti. I romani non hanno ceduto, non sono andati a lavorare per i tedeschi, non hanno mandato i loro figli a combattere per i tedeschi, non hanno denunciato i partigiani e i prigionieri alleati, non hanno preso il sale e la farina che il generale Malzer, comandante della piazza di Roma, cercava di distribuire andando in giro per i quartieri popolari e facendosi fotografare nella sua bianca uniforme da cerimonia. E su questo poi aggiunge, in un'altra parte del libro, una frase che riassume un po' tutto. In quel periodo, a partire dall'8 settembre fino alla liberazione del 43 e fino al 4 giugno del 44, praticamente metà città nascondeva l'altra metà. Cioè, si calcola, si è stimato che oltre 400.000 persone, tra militanti politici, tra renitenti alla leva, tra fuggiaschi delle varie cose, tra ebrei e altri perseguitati, venivano nascosti dall'altra metà della città. Settembre. Il primo colpo di fucile, una raffica di Schmeisser, i tedeschi lo sparano a tradimento alle 21:30 sul ponte della Magliana, attaccando il posto di controllo tenuto dal primo reggimento granatieri di Sardegna. Lo scontro è durissimo, ma nonostante l'agguato i granatieri resisteranno fino al mattino, quando, costretti ad abbandonare il ponte, raggiungeranno attraverso i campi le postazioni della Cecchignola e della Montagnola. Sul terreno lasciano 38 morti, i tedeschi 22. È la sera di mercoledì 8 settembre, dunque, e quegli 8 granatieri uccisi al ponte della Magliana sono i primi morti italiani nella difesa di Roma, i primi caduti della guerra di liberazione. Prima che scocchi la mezzanotte, i combattimenti si sono propagati sullo Ostiense, alla casetta rossa delle Tre Fontane e lungo l'intero asse della Laurentina. Quella notte resistono nella zona del ponte della Magliana anche i lancieri di Montebello e i granatieri del caposaldo numero 5 sbarrano l'Ostiense all'altezza della chiesa dell'E42. Poi al mattino del 9 gli scontri dilagheranno sempre più violenti in altre zone della città per altri 2 giorni e mezzo. Con l'agguato tedesco alla Magliana inizia l'occupazione nazista della città. Avrà fine 271 giorni dopo. Saranno i 271 giorni peggiori nella storia di Roma, una città che nell'ultimo millennio di periodi terribili ne aveva pur vissuti parecchi. Eserciti stranieri e saccheggi, pestilenze e carestie, inondazioni, incendi, faide fra famiglie nobiliari, dittature e guerre. L'occupazione nazista sommerà però insieme per i romani tutte le piaghe, tutte le angosce e le sofferenze che la memoria della città aveva registrato attraverso i secoli. Saranno i mesi terribili del freddo e della fame, delle bombe e delle fucilazioni di massa, dell'orrore e della morte. Saranno insieme per i romani i mesi del coraggio e dell'eroismo. Gente sconosciuta, popolani rimasti senza nome e senza volto, vivranno la loro epopea anonima nella lotta e nella resistenza, nelle celle della Gestapo, davanti ai muri delle fucilazioni e nelle cave ardeatine dello sterminio. Quando la mattina del 9 i tedeschi riescono a forzare la disperata difesa di granatieri e carabinieri sul ponte della Magliana, la battaglia della Montagnola si sviluppa prima attorno al forte, poi per il possesso della Casa Rossa. Romolo Dorinzi è un ragazzino di 14 anni. La madre prende per mano lui e la sorella e scappa di casa per cercare scampo dal combattimento che si avvicina. Vuole rifugiarsi in parrocchia, ma giù in strada Romolo vede un gruppo di paracadutisti tedeschi che sta piazzando due cannoni per prendere alle spalle i difensori del forte. Non ci pensa un istante, si libera con uno strattone dalla presa della mamma e comincia a correre verso il forte, va ad avvisare i granatieri. I tedeschi se ne accorgono e subito gli sparano addosso, prima uno, poi un secondo, poi altri due o tre. Il ragazzino fila come una lepre, zigzagando tra i proiettili. Uno lo prende di striscio al braccio, ma lui non si ferma. Arriva tra i granatieri con il braccio penzolone, dà l'allarme ed evita una strage. E questi sono i primi, diciamo, primissimi, insomma, dell'8 settembre se ne è parlato tanto, ritorneranno altre figure, altri nomi noti, e noi cercheremo soprattutto di dare spazio ai nomi dei meno noti, dei meno conosciuti, insomma, di quelle giornate e di quelle successive, ovviamente, perché questa è la storia della liberazione di Roma che vogliamo trasmettere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, in tutti i vari aspetti, uno dei quali per esempio è quello del reclutamento dei romani, e non solo dei romani, diciamo degli italiani in genere, ma qui parliamo in particolare del caso di Roma, reclutamento di braccia per o andare a lavorare in Germania o in particolare per rafforzare le difese che l'esercito tedesco andava costruendo proprio per fronteggiare l'avanzata degli alleati. E appunto il 18 settembre c'è un primo assaggio, no, del comportamento dei romani. Il comandante del fronte sud nazista, quindi Kesselring, questo nome ricorrerà spesso, insomma, Kesselring era il comandante in capo delle armate del fronte sud, a Kesselring è dedicata, per chi se lo ricorda, quella famosa epigrafe che sta lì a Marzabotto, dedicata a Kesselring, no? Sulla il monumento, no? fatto con la pietra, appunto. E il comandante Kesselring getta la maschera del buon alleato e invia una lettera, 24 righe, una breve lettera, al Ministero dell'Interno, dove vi si ordina di mettere a disposizione delle forze armate tedesche 60.000 lavoratori, 60.000, di sesso maschile, dalle classi 1910-1905, in ragione di 20.000 lavoratori al 25. Scusate, al 25 novembre e al 28 novembre, per l'adempimento dei numerosi compiti nella zona di guerra italiana, ricordando la massima necessità di osservare in ogni modo i termini suddetti. Il giorno dopo, il 19 settembre, Kesselring fa addirittura pubblicare sulle prime pagine dei giornali un appello invitando i lavoratori italiani a recarsi in Germania. Troverete oltre Alpe lavoro e pane, con quello spirito di giustizia nazionale e socialista che distingue la nuova Germania. Presentatevi agli uffici di arruolamento in via Tasso numero 155. Voi andate in Germania come liberi lavoratori e ritornerete come liberi lavoratori nella vostra patria. Bene, per quanto riguarda Roma, poi i risultati di questa propaganda furono i seguenti. Nello specchietto segreto che il Ministero degli Interni si era fatto, stabilendo per ogni provincia l'aliquota di lavoratori da dare ai tedeschi fino al tetto dei 60.000 richiesti a livello nazionale, Roma ne doveva fornire 16.440 unità. Alla prima scadenza fissata dai tedeschi, quella del 25 settembre, nei punti di raccolta fissati per accogliere la prevista massa di lavoratori, distretto militare, scuola Oriani in piazza Indipendenza, c'è ancora la scuola Oriani, insomma, no? Per chi mi sembra che sia un liceo linguistico, insomma. E alla Costanzo Ciano di Piazzale degli Eroi, che oggi ha cambiato nome, e ai commissariati di polizia se ne presentano 315. Quindi questa è già una prima risposta, no? A quello che era, su 16.400 che dovevano essere secondo le stime, se ne presentano 315, e non va certamente meglio altrove. A Teramo, Pescara, L'Aquila, su 12.600 richiesti non si presenta nessuno, all'Aquila 40 su 6.000, a Frosinone 312 su 6.900 e così via, insomma. Quindi questo è sicuramente il primo segno di risposta che già la popolazione romana e non solo dà a questi inviti che aveva fatto Kesselin, il quale ovviamente si indispettisce non di poco di questo comportamento e quindi prosegue nella sua campagna di reclutamento forzato. Arriverà proprio ai rastrellamenti, poi lo vedremo in seguito, ci saranno i rastrellamenti per portarsi via gli uomini, insomma, dalle famiglie, mandarli in Germania oppure farli lavorare in Italia, e successivamente pubblica un avviso che è di questo tipo: il comando superiore delle forze armate tedesche comunica, gli appartenenti alle classi 910-925 sono chiamati in servizio del lavoro da parte delle autorità italiane. Questa chiamata è avvenuta per ordine del comando superiore tedesco. Chi non ottempera in tempo alla chiamata, oppure chi cerca di sottrarvisi in qualsiasi maniera, soprattutto cambiando di residenza, sarà punito secondo le leggi germaniche di guerra. Ma i romani tengono duro, dice De Simone, sia alle blandizie che alle minacce. Una mattina di metà ottobre appare sui muri dei quartieri popolari un grande manifesto a colori con l'aquila nera sulla svastica e lo slogan: operai italiani, arruolatevi, la grande Germania vi proteggerà. Nella notte, sfidando il coprifuoco, la gente esce e lo straccia a Primavalle come a Pietralata, a Montesagro, a Tiburtino, al Quadraro, al Prenestino, a Testaccio, a San Lorenzo. Non uno dei manifesti in questione è stato risparmiato dagli ignoti teppisti, annota il mattinale della questura. Questo rifiuto del lavoro per i tedeschi è la prima dimostrazione, tra il settembre e l'ottobre del 43, di quella resistenza di massa, di quella ostilità profonda e ramificata che i romani, al di là della lotta armata condotta da un'elite combattente, opposero all'occupazione nazista. Al fine il dì della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti, la guardia rossa suona la donata, tu presenti vent'anni. Ecco, una telefonata di un ascoltatore ci chiedeva dove leggevamo queste cose. Allora, queste, come altre che queste che abbiamo letto e altre che leggeremo, le abbiamo prese dal libro di Cesare De Simone che si chiama Roma città prigioniera, l'editrice è Mursia. altre cose le abbiamo prese dal libro di Ruggero Zangrandi, 25 luglio 8 settembre 1943, editrice mi sembra Il Mulino, altre da La Resistenza a Roma attraverso le epigrafi, un libro di Giuseppe Mogavero che parla in particolare delle lapidi, delle epigrafi commemorative, e alcune anche dal libro di Dario Pacino, I Senza Patria, Resistenza Ieri e Oggi. E dunque, proseguendo in questa nostra ricostruzione, insomma, che è anche cronologica, un'altra data immancabile nella memoria di questa città e di quei giorni, in particolare il 16 ottobre, che è il 39esimo giorno dell'occupazione nazista, e avviene il rastrellamento del portico d'Ottavia. Alle 5.30 oltre 130 tedeschi fra SS e territoriali della Wehrmacht iniziano la grande razzia del vecchio ghetto di Roma. Le stradine attorno a via del portico d'Ottavia, tra via Renula e il teatro Marcello, simultaneamente altre unità germaniche nelle 26 zone operative di cui il comando tedesco ha suddiviso la città, iniziano la caccia ad altre famiglie israelite. Nel giro di poco meno di 4 ore, alle 9, 1022 ebrei romani sono stati catturati, uomini e donne, vecchi, neonati, persone ammalate. Due giorni dopo, con un lungo convoglio di 18 vagoni piombati partito dalla stazione di Burtina, tutti i prigionieri vengono portati nel campo di sterminio di Auschwitz in Polonia. Ne torneranno alla fine della guerra solo 15, 14 uomini e una donna, tra loro nessuno degli oltre 200 bambini, tutti finiti nelle camere a gas. E questa, insomma, è, come dicevo, una di quelle pagine, non solo riguarda in particolare la storia di Roma, di quel periodo qui dell'occupazione nazista a Roma, ma insomma è una di quelle vicende che ha poi assunto una valenza nazionale e internazionale, perché insomma le deportazioni degli ebrei avvennero in tutta Europa, ma questa del portico d'Ottavia qui a Roma fu particolarmente significativa e particolarmente sentita, tant'è che proprio all'indomani, insomma, già dopo la prima sollevazione spontanea, proprio avvenuta l'8 settembre, di cui abbiamo dato appena un breve cenno, insomma, di questi popolani, di queste persone che si recano spontaneamente lì a combattere insieme ai militari intorno a tutto il quadrante est della città, dalla Montagnola ovest della città, la Montagnola, fino appunto alla Porta San Paolo, dove c'è la piramide, e cominciano viceversa un altro tipo di attività più sistematica, comincia a farsi sentire proprio la resistenza sia spontanea che organizzata. Della capitale è giunta al fine il dì della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa. I tedeschi adesso temono i chiodi a quattro punte più delle bombe a mano. Il comando di Kesselring ordina che ogni autocolonna venga preceduta da uno o due panzer per evitare sia i chiodi che gli attacchi partigiani. Ma questo modo di procedere è assai lento, provoca insopportabili ritardi nell'approvvigionamento del fronte. Il comando delle brigate Garibaldi dei castelli romani calcola che un'autocolonna preceduta da carri armati impiegava un'intera notte per coprire la distanza da Roma Nord a Velletri o a Val Montone, vale a dire dalle 8 alle 10 ore per percorrere 60-70 chilometri. L'idea di usare quest'arma tanto ingenua quanto omicidiale, una sorta di uovo di Colombo della resistenza romana, nasce nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre a un militante comunista, Lindoro Boccanera, che usava come rifugio il museo del bersagliere di Porta Pia. Un giorno, tra i cimeli della Grande Guerra, Boccanera scorge un chiodo a quattro punte di fabbricazione austriaca, intuisce subito quale danno quel piccolo ordigno può arrecare ai tedeschi e lo fa arrivare a Roberto Forti, a capo del comando militare romano delle brigate d'assalto Garibaldi. Due giorni dopo, in tutti i quartieri di Roma, decine di fabbri, autentici, nelle loro botteghe o improvvisati nelle case e nelle cantine, si mettono a fabbricare i chiodi. L'unità clandestina insegna il metodo che oggi diremmo fai da te. Quasi tutti i chiodi a quattro punte che arrivavano alle formazioni romane del PC provenivano dalla bottega di un fabbro, Enrico Ferola, in via della Pelliccia a Trastevere. Ferola ne aveva fatti non meno di 10.000 quando la notte del 19 marzo venne scoperto per una spiata dagli scherani della banda Koch. Portato alla pensione Iaccarino, torturato, non rivelò a chi fosse destinato il mezzo quintale di quattro punte che gli trovarono. La mattina del 24 marzo Koch e Caruso lo inserirono nella lista dei 50 nomi da dare ai tedeschi per la rappresaglia di Via Rasella ed Enrico Ferola, 54 anni, fabbro trasteverino e partigiano della quarta zona del PC, finì alle Ardeatine. 22 ottobre, 45esimo giorno dell'occupazione. La popolazione di Pietralata è alla fame nera. Un folto gruppo di persone penetra nella locale caserma dell'ottavo genio sulla via Tiburtina, abbandonata fin dal 10 settembre, con la speranza di trovarvi un po' di cibo. È un venerdì mattina, piovigina. Sul posto irrompono i tedeschi insieme a un gruppo di militi fascisti che si lanciano addosso alla gente, tra cui bambini e donne, pestando duramente e arrestando 60 persone. Ne nasce una mischia, qualcuno intanto casca un'arma e si difende, sodono dei colpi di pistola e restano a terra due morti, un ragazzo italiano e un soldato tedesco. 10 degli arrestati vengono immediatamente fatti allineare contro un muro della caserma e fucilati. 28 ottobre, 50esimo giorno dell'occupazione. I fascisti romani celebrano la data fatidica del regime, ma la città li isola e li combatte. La manifestazione principale avviene a Palazzo Braschi, poi una colonna con alla testa gli squadristi Gino Bardi e Carlo Franchinè esce alle 11 dall'edificio per recarsi a Piazza Venezia, al monumento del Milite Ignoto. Percorsi un centinaio di metri, a Piazza Sant'Andrea della Valle, il corteo, preceduto da due vetture con labari e bandiere, viene attaccato da un gruppo di 6 partigiani che lanciano 3 bombe a mano e sparano con le pistole. Una delle auto, un'Aprilia, accentrata e si incendia. Il corteo si disperde. Quasi alla stessa ora, in via Brenta, un altro gruppo di repubblichini esce in corteo dalla caserma della milizia stradale, dove la ricorrenza è stata celebrata ascoltando alla radio il discorso del segretario nazionale del Partito Fascista Repubblicano, Alessandro Pavolini. Due bombe a mano vengono lanciate contro il piccolo corteo che rientra precipitosamente nella caserma, sparacchiando alla cieca. Un'identica scena, ben 4 bombe a mano lanciate a pioggia, dirà poi uno dei campisti che ha partecipato all'azione, smorzano gli ardori di un folto gruppo di militi neri che cantano a squarciagola inni fascisti davanti alla scuola Gelasio Gaetani. 17 dicembre, 101esimo giorno dell'occupazione. Prime azioni contro i tedeschi. È un venerdì, sono trascorse da poco le 19 quando un tenente colonnello della Wehrmacht esce attraverso la porta girevole dell'hotel Ambasciatori e si incammina sul marciapiede di via Veneto in direzione di piazza Barberini. È un uomo alto, elegante nell'uniforme, ma dietro a lui si materializzano una ragazza e un giovane che estraggono le pistole, le puntano, gli sparano una, due volte. Il tedesco crolla a terra, i due gli strappano la valigetta dalla mano e fuggono. Lui è ancora vivo, urla, invoca aiuto, morirà mentre lo portano all'ospedale sotto una pioggia battente. Hanno agito 4 gappisti del GAP centrale del Partito Comunista che danno il via con questo attentato a 3 giorni terribili contro l'occupante nazista. Finora nessun soldato tedesco era mai caduto nelle strade di Roma sotto i colpi dei GAP. La resistenza aveva mirato esclusivamente agli italiani fascisti, militi della GNR, brigadisti neri, paracadutisti della Nembo, uomini delle varie polizie speciali repubblichine, torturatori di patrioti, funzionari di polizia, cacciatori di ebrei e partigiani, caporioni del Partito Fascista Repubblicano, spie dell'SS e della Gestapo. Proprio in questo pomeriggio, poche ore prima dell'agguato a Via Veneto, 2 militi della GNR erano stati uccisi da gappisti al centro della città. Il primo in piazza Cola di Rienzo, l'altro quasi simultaneamente in via Donizetti. Il giorno dopo, sabato verso le 20:30, la trattoria Antonelli al numero 101 di via Fabio Massimo è colma di avventori. Il locale è molto frequentato da tedeschi e collaborazionisti fascisti del vicino comando germanico di via Legnano. Improvvisamente, come scritto nel mattinale della polizia, veniva lanciato attraverso il vetro rotto di una finestra un ordigno esplosivo nei locali dello stabile. I morti nell'attentato di via Fabio Massimo saliranno a 10 il giorno dopo, moriranno infatti al San Giacomo oltre i 6 morti durante il lancio dell'esplosivo, anche 2 soldati tedeschi rimasti feriti. Subito dopo questa passano meno di 24 ore, sono le 17:50 di domenica. 3 gappisti, 2 uomini e una ragazza, piazzano altrettanti spezzoni esplosivi sulle finestre a pian terreno dell'Hotel Flora, sul lato dell'edificio che affaccia lungo via Campania. Nel lussuoso albergo di via Veneto, requisito dai tedeschi, si trovano ben 2 comandi della Wehrmacht e gli uffici del Tribunale di Guerra Germanico. Vi abbinano inoltre molti ufficiali superiori nazisti. Una bomba fa cilecca, le altre 2 esplodono, l'intero pianterreno dell'albergo è devastato, la vampata investe in pieno il bar e i tedeschi terranno segreto il numero di morti e feriti, ma si parla di almeno 6 cadaveri. Il comando tedesco quello stesso giorno porta il coprifuoco alle 19 e sospende i permessi di circolazione, facendo inoltre divieto di circolazione alle biciclette dalle 17 in poi. Nella notte inoltre SS e reparti della milizia fascista compiono in città più di 1000 arresti di schedati e indiziati politici. Dicembre, 103° giorno dell'occupazione, un breve bando del comando tedesco affisso sui muri vieta dalle 17 alle 7 la circolazione ai ciclisti in tutta la città di Roma. Si vuole impedire il movimento dei gappisti che usano la bicicletta per i loro fulmini attentati e che nei primi 10 giorni di dicembre hanno ucciso per le strade 7 ufficiali e 3 militari delle SS, fatto saltare 4 camion, attaccato 6 posti di polizia. Il divieto serve a poco. 6 giorni dopo, verso mezzogiorno del 28 dicembre, un solitario e audacissimo gappista in bicicletta, Mario Fiorentini, 22 anni, con la copertura di altri 4 compagni lungo il percorso, lancia uno spezzone di 2 kg di tritolo contro l'ingresso principale del carcere di Regina Coeli, in via della Lungara, proprio mentre i soldati tedeschi del posto di guardia stanno dandosi il cambio. Muoiono 5 nazisti, i feriti sono una ventina, di cui 2 espireranno nei giorni successivi all'ospedale. I prigionieri dentro al penitenziario sentono il terribile boato ed esultano. Non meno di 30 spie, informatori al soldo della Gestapo, vengono giustiziate dai partigiani, come il famigerato Armando Stampacchia, che dirigeva il commissariato del Quadraro, o il capo del gruppo rionale del Partito Fascista Repubblicano di Tor Pignattara, Amedeo Di Giacomo. Il 24 gennaio, 139° giorno dell'occupazione, qualche minuto prima delle 13, una giovane donna bionda bussa al grande portone del penitenziario, le aprono subito, nel corpo di guardia ci sono soldati tedeschi delle SS e agenti di custodia italiani. Buongiorno signora Monaco, saluta rispettoso il capo guardia. La donna è Marcella Monaco, moglie di Alfredo, lo stimatissimo medico del carcere, che dottore obbligato alla reperibilità notturna, e sono tra i più attivi dirigenti della resistenza. Sì, questo episodio viene accennato alla una beffa nel vero senso della parola per i fascisti e per i nazisti, perché questo dottor Monaco e sua moglie si munirono di permessi di rilascio di un certo numero di detenuti che erano riusciti a ottenere trafugandoli dall'ufficio apposta, e con questo espediente liberarono 7 membri del CLN nazionale, tra cui Pertini e Saragat, e questa fu una delle azioni più eclatanti, anche perché poi giocata molto sull'astuzia, Giocata molto sull'astuzia e quindi insomma fu particolarmente sentita dalle autorità tedesche. Proseguendo insomma sempre così, per dare un'idea di quello che furono quelle giornate che intercorrono, tutto quel periodo che intercorre tra l'8 settembre del 43 e il 4 giugno del 44, data della liberazione di Roma, c'è da ricordare i combattenti della scuola. Tra questi numerosi, insomma, ancora oggi sono gli istituti che portano il nome di questi combattenti, tutti morti, chi combattimento, chi viceversa, come spesso accadeva, fucilati o torturati, insomma, o finiti alle fosse ardeatine. Tra questi, insomma, Massimo Gizio, uno dei tanti nomi sull'albo d'oro della scuola romana, del suo contributo alla guerra contro i tedeschi. Un'infinità di pagine sono state scritte su questo tema, tante lacrime versate, ma il solo scarno elenco dei caduti, come una bandiera di combattimento, è sufficiente a fissare nella memoria dei singoli e in quella del paese il sostegno dato da studenti e professori al secondo risorgimento della patria, così lo chiama De Simone, con una accezione cara, diciamo così, al Partito Comunista, a chiamarlo secondo risorgimento. Pilo Albertelli, 37 anni, medaglia d'oro al valor militare, professore di filosofia al liceo di Via Manin, che oggi porta il suo nome, organizzatore delle squadre armate del Partito d'Azione, arrestato, torturato a lungo in Via Tasso, fucilato alle fosse ardeatine. Mariano Buratti, 43 anni, medaglia d'oro al valor militare, ex ufficiale della Guardia di Finanza, insegnava storia e filosofia al liceo di Viterbo, organizzatore delle bande partigiane dell'Alto Lazio. Salvatore Canalis, 36 anni, insegnante di lettere nella scuola militare di Roma, militante del Partito d'Azione, arrestato dalla banda Koch, torturato alla pensione Iaccarino, fucilato alle ardeatine. Gioacchino Gesmundo, 37 anni, professore di lettere al liceo scientifico Cavour, gappista, arrestato e portato a Via Tasso, torturato per 40 giorni, fucilato anche lui alle ardeatine. Raffaele Persichetti, 35 anni, medaglia d'oro, professore di storia dell'arte al liceo Visconti, ex ufficiale dei Granatieri, a corso volontario a Porta San Paolo la mattina del 9 settembre 43 e ucciso in combattimento. Ferdinando Agnini, 20 anni, studente di medicina, organizzatore degli studenti e fondatore dell'ARSI, l'Associazione Rivoluzionaria Studentesca Romana. Romualdo Chiesa, 22 anni, medaglia d'oro, studente di ingegneria, responsabile militare del movimento dei cattolici comunisti, ferocemente torturato a Via Tasso, fucilato alle ardeatine. E poi, dopo questi fatti, tanti fatti che insomma abbiamo appena elencato e neanche tutti, insomma, cominciano qui nella città di Roma, comincia la politica, la strategia dei rastrellamenti. I rastrellamenti che sono proprio indiscriminati, cominciano, arrivano queste colonne di camion, queste truppe tedesche, bloccano un'intera zona e cominciano rastrellamenti di massa, sia a fini politici di snidare, diciamo così, i membri della resistenza, sia proprio di reclutare braccia, perché come abbiamo visto, insomma, nessuno si presentava agli appelli di Kesselring. Il primo rastrellamento in ordine di tempo era stato effettuato il 27 ottobre nei quartieri di Montesagro, Tufello e Valmelaina. 1000 persone vennero incolonnate dalla SS e fatte marciare sulla Nomentana, dopo un discorso in cui un ufficiale tedesco proferì urla e minacce contro chiunque avesse simpatizzato con la resistenza. 346 uomini vennero trattenuti e destinati al lavoro obbligatorio. Altre retate il 7 novembre nella zona compresa tra Piazza Mazzini e Piazza Bainsizza, il 14 e il 19 dello stesso mese a Piazza Fiume e nella borgata di Pietralata. Il 7 gennaio 44 ancora a Pietralata, 1200 rastrellati, 242 deportati. Il primo marzo nella zona del centro compresa tra Piazza Venezia, Piazza Colonna, Piazza Barberini e Piazza di Spagna. Il 30 marzo alla borgata Gordiani al Quadraro, in risposta ai numerosi attentati e ai continui sabotaggi con i quali la popolazione reagisce alla presenza dell'occupante. Il 12 aprile a Centocelle e Cinecittà, il 17 di nuovo al Quadraro. Lì ci fu un rastrellamento particolare di cui parleremo dopo. Il 19 nella zona dei quartieri Appio e San Giovanni, il 3 maggio a Ostia e nella zona Aurelia. E questi sono soltanto i rastrellamenti principali. Capitava almeno un paio di volte alla settimana che tedeschi e fascisti chiudessero una sola strada e pescassero letteralmente tutti gli uomini che c'erano dentro. Anche i paesi attorno a Roma però erano spesso bloccati nella morsa dei rastrellamenti per procurare braccia da spedire nelle fabbriche in Germania o spalare nell'immediata retroguardia del fronte. Per tutti c'è su questo, insomma, però non abbiamo letteralmente il tempo di leggerlo, dei documenti del capo di gabinetto e del vice capo della polizia che, insomma, indicano effettivamente qual era la volontà di portare via, rapire, perché i rastrellamenti sono dei veri e propri rapimenti, insomma, fatti con le armi dall'occupante, portare via gli uomini per destinarli o ai lavori in Germania, deportati insomma negli stabilimenti di questa sigla che si chiamava Todd, oppure impiegarli nella costruzione delle fortificazioni in Italia. La città ribelle mai domata dalle rovine e dai bombardamenti, la Guardia Rossa suona la adunata. Tutti presenti, 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confine e col bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione. 3 marzo, 178esimo giorno dell'occupazione. Un maresciallo tedesco delle SS ammazza con un colpo di pistola al petto Maria Teresa Gullace, 37 anni, madre di 5 figli, incinta al 7° mese di un 6°. Gli ha sparato proprio sul petto, ha tirato fuori la pistola e subito gliel'ha puntata e ha sparato, racconterà piangendo una donna che era accanto a Maria Teresa. Una grande folla di donne si è raccolta alla caserma dell'81esimo fanteria in via Giulio Cesare, dove sono stati ammassati oltre 1000 uomini rastrellati il giorno prima nelle strade del centro. Liberateli, fateli uscire, urlano le donne, divenute intorno a mezzogiorno una marea, perché la voce si è sparsa sin dal mattino anche in periferia che gli uomini stanno rinchiusi là, quelli che non sono tornati a casa. I tedeschi li vogliono spedire in Germania con la Todd. Su viale Giulio Cesare le donne vengono fronteggiate da SS e militi fascisti. Il primo aprile, di fronte a un forno di via Tosti, quartiere Appio, c'era stata una forte manifestazione di donne contro la riduzione della razione giornaliera a 100 grammi, dando inizio a una nuova disperata serie di assalti ai forni. Il 6 aprile a Borgo Pio la folla assale addirittura un camion scortato da militi fascisti che trasporta pane per una caserma. In questa ondata di assalti ai forni una guardia della PAI ammazza con una fucilata una donna del Tiburtino Terzo, Caterina Martinelli, che aveva 7 figli. Il giorno dopo, sul marciapiede dove era stata uccisa la donna, qualcuno depone un cartello con la scritta: qui i fascisti hanno ammazzato Caterina Martinelli, una madre che non poteva sentir piangere dalla fame tutti insieme i suoi figli. Ma l'episodio più tragico avviene all'Ostiense, al Ponte di Ferro, su cui passa la strada che va al Portuense. Una folla di donne e ragazzini dall'assalto al forno Tesei, dove anche un deposito di pane per i rifornimenti alle truppe tedesche di stanza a Roma. Intervengono SS e militi fascisti, 10 donne vengono afferrate di forza, portate sul ponte e abbattute a raffiche di mitra contro la spalletta di ferro. È la mattina del 7 aprile, un venerdì. Siamo ormai a marzo e marzo è il mese con 2 date fondamentali: l'attentato di via Rasella e il giorno seguente l'eccidio delle fosse ardeatine. Su via Rasella sono state dette tante cose, non episodio noto, arcinoto, strumentalizzato, additato come esempio cattivo da tutto, insomma, quello che è stata l'ondata revisionista che poi nel tempo si è sviluppata qui in Italia. E basta solo dire che l'attentato di via Rasella fu giudicato dai massimi esponenti nazisti, non solo da Kesselring ma dallo stesso Hitler, uno dei, forse il più grosso attentato che ci fu durante l'occupazione nazista in Europa, insomma, no? Attentato portato dalla resistenza, dalle varie forme di resistenza che c'erano disseminate nel continente, insomma, e che riguardavano soprattutto l'attività dentro, per quanto riguarda l'attività resistente dentro le città. Detto questo, il giorno dopo c'è, si verifica la reazione a questo attentato è fra le più furibonde e diventa si trasforma immediatamente nella rappresaglia, anche qui, che tutti conosciamo, ma che vale su cui vale spendere almeno le poche, non le poche, De Simone gli dedica ovviamente parecchio spazio, ma insomma ne prendiamo solo una parte di quello che dice De Simone. E di quello che è successo il giorno dopo, nessuno dei romani lo sa, neanche i membri del CLN e della giunta militare, neanche i cappisti che hanno operato in via Rasella e i loro comandanti. Kappler e i suoi sgherri hanno cominciato alle prime luci dell'alba la terribile conta delle vittime destinate alla rappresaglia. I tedeschi prendono molti ostaggi dalle loro celle di via Tasso e da Regina Celi, altri vengono consegnati dal questore Caruso e dalla banda Koch. Alla fine questa sarà la situazione giudiziaria dei 335 massacrati all'Ardiatine. 154 erano a disposizione dell'Außenkommando sotto inchiesta di polizia, 23 a disposizione del Feldgericht, tribunale militare tedesco, in attesa di giudizio, 3 condannati a morte e in attesa di esecuzione della condanna, 16 condannati a pene detentive da 1 a 15 anni, 75 ebrei arrestati solo perché tali, 40 a disposizione della questura fermati per motivi politici, 10 a disposizione della questura fermati per motivi di polizia giudiziaria, 10 rastrellati nei pressi di Via Rasella e ce n'erano 5 in più. Questo è sempre stato uno degli aspetti su cui ci si è soffermati, ce n'erano 5 in più nella tragica contabilità. I fascisti del questore Caruso si erano sbagliati per eccesso e Kappler non era stato lì a contare, aveva fatto fucilare tutti quelli che i camion targati Wehrmacht avevano scaricato davanti all'ingresso della cava sull'Ardeatina. Ma questo tremenda, insomma, bisogna immaginare l'effetto che ebbe sulla città di Roma e non solo, insomma, dell'attentato a Via Rasella e dell'eccidio. La notizia ovviamente si sparse, insomma, con due effetti. Ovviamente l'attentato che rinvigoriva tutte le formazioni partigiane che operavano in Italia, la repressione, l'eccidio, lo sterminio dei 335 fucilati alle fosse ardeatine. E gettava rabbia ma anche sconforto. E però Roma non si arrende, come dice De Simone, e seguita, insomma, nonostante questo, nonostante l'incrudimento complessivo della repressione nella sua battaglia, e anche se il 3 aprile c'è da registrare un'altra esecuzione, no? Per opera della PAI, Polizia Africa, non ricordo adesso la sigla, fucila Don Giuseppe Morosini alla stessa ora. Un plotone di SS irrompe in casa di Peppino Gracceva, comandante militare delle formazioni Matteotti, lo ferisce e lo arresta. È l'inizio della grande retata, resa possibile dalle indicazioni di un nazista infiltrato che di fatto scardina l'organizzazione militare del Partito Socialista, quindi le brigate Matteotti in particolare. Alle 10, tre gappisti però dello stesso giorno lanciano bombe a mano e una bottiglia incendiaria dentro un parcheggio al Circo Massimo usato dai tedeschi e vanno in fiamme due autocarri e alcune vetture. Poco dopo mezzogiorno, gappisti della zona Quadraro, nei pressi dell'osteria del Curato, località Torretta, ammazzano tre paracadutisti tedeschi. Sulla via Appia, all'altezza del quarto miglio, una formazione delle Matteotti blocca con una mina una colonna tedesca diretta al fronte. Saltano in aria due camion di munizioni, uccidendo una decina di soldati. A San Lorenzo un gruppo armato assalta la sede del fascio di Piazza dei Siculi e distrugge le liste dei ricercati. In piazza Cavour, davanti al Palazzo di Giustizia, alcuni giovani distribuiscono ai pochi passanti un volantino firmato Comitato Forense di Agitazione, che programma per il 6 aprile una sospensione delle udienze in tribunale. Il volantino verrà anche largamente diffuso il giorno dopo nei corridoi e nelle aule di quello che i romani chiamano il Palazzaccio. Sarà proprio prendendo lo spunto da questo volantino che il vice capo della polizia della Repubblica Sociale Italiana, Cerruti, la mattina del 5 aprile scriverà una lettera molto preoccupata al suo capo, che era appunto il capo generale della polizia. E siamo alle ultime alle ultime, diciamo, ci avviciniamo, insomma, da marzo passiamo ad aprile, le ultime battute prima del giugno. No, qui siamo ancora al 9 marzo, 10 condanne a morte per atti di violenza, il comando tedesco di Roma comunica, per atti di violenza sono state condannate a morte le seguenti persone: rattoppatore Guido, domiciliato a Roma, al cui per inciso è intitolata ancora quella che è ora la sede del PD a via dei Giubbonari, ma che per tanti anni è stata appunto la sede del PC, e una targa in ricordo, una lapide, si trova alla fine di via Giulia in un vicolo di cui non ricordo il nome, dove appunto rattoppatore abitava. Bussi Antonio, domiciliato a Roma. Labò Giorgio, senza domicilio fisso. Gentile Vincenzo, domiciliato a Roma. Pasini Augusto, domiciliato a Viterbo. Fioravanti Concetto, domiciliato a Isola Farnese. E Nardi Antonio, domiciliato a Roma. Negelli Mario, domiciliato alla Storta. Liportiti Francesco, domiciliato a Roma. Laufer Paul, domiciliato a Roma. L'esecuzione della condanna è stata eseguita mediante fucilazione. Giorgio Labò era stato arrestato dalle SS la sera del 1 febbraio per una spiata nell'appartamento di via Giulia 25A, dove era installata la Santa Barbara dei GAP centrali, il laboratorio dove si confezionavano bombe, spezzoni, ordigni a tempo. Con lui è catturato Gianfranco Mattei, docente universitario di chimica e giovane promessa della scienza italiana, l'altro artificiere gappista. Portati a via Tasso, nero a lungo e selvaggiamente torturati. Mattei non riuscì a sopportare, gli sgherri di Kappler lo minacciarono anche che sarebbero andati a prendere sua moglie, che l'avrebbero torturata e violentata davanti a lui se non parlava. Così, per non tradire, la notte del 4 febbraio, ridotto ormai in fin di vita, si impiccò alle sbarre della cella. Aveva 27 anni. E siamo dunque a registrare queste fucilazioni, queste esecuzioni continue che piombano sui combattenti della Resistenza, e nonostante questo, però, come sottolinea De Simone, Roma non si arrende. Non si era arresa, aveva continuato nell'ombra della guerriglia a combattere, a contrastare in ogni modo possibile l'occupante straniero e i suoi servi italiani. Roma ammassa fascisti e tedeschi, tiene il nemico sulla corda del terrore e dell'olio. Vendica gli ebrei rastrellati e inviati nei lager, i patrioti torturati a morte nelle celle di Via Tasso e di Palazzo Braschi, nelle pensioni della banda Koch. Roma è una guerriera lacera, ha fame e freddo, estrae dalla macera i suoi figli schiacciati e calcinati, i suoi bambini muoiono di inedia, i suoi vecchi si spengono nel gelo di case trasformate in ghiacciaie. E così ancora si registrano nelle cronache che ignoti lanciano bombe a mano contro tedeschi e fascisti. Non sempre sono partigiani inquadrati nelle formazioni della Resistenza, a volte si tratta di cittadini che per conto loro, come e quando possono, conducono una guerra personale contro gli occupanti con la svastica e con la camicia nera, una guerra fatta magari di un solo gesto, di un solo lancio di granata, di una sola bottiglia in testa a un fascista. E siamo a 17 aprile, il cerchio di gesso del Quadraro lo intitola il paragrafo che gli dedica De Simone. Sono le 5 in punto, il cielo sta appena schiarendo quando le urla e gli spari delle SS risuonano improvvisi nelle strade del Quadraro ancora addormentato. Inizia il rastrellamento dell'intero quartiere, il cui piano è stato messo a punto da Kappler e da lui stesso diretto. A 6 mesi esatti dalla razzia del portico d'Ottavia e 24 giorni dal massacro delle fosse ardeatine, la città sta subendo la terza grande rappresaglia dell'invasore nazista. 2000 uomini di ogni età sono catturati nelle case e portati via coi camion in un enorme teatro di posa di Cinecittà adibito a campo di raccolta. Di loro 744 verranno, dopo alcuni giorni, deportati in Germania, dopo brevi tappi a Terni e a Fossoli. Fossoli era un campo di concentramento che si trovava tra le Marche e l'Emilia, se ricordo bene, comunque qui in Italia. Perché il Quadraro? È lo stesso nemico a spiegarlo. Scriverà infatti qualche anno dopo l'allora console tedesco a Roma, Eitel Molhausen. Il rastrellamento del Quadraro fu il più imponente di quelli che Roma subì. non rientrò però nel quadro previsto dalle forze armate per procacciarsi manodopera. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. Il comando della città era dell'opinione più volte manifestata che quando qualcuno non riusciva a trovare rifugio o accoglienza nei conventi o al Vaticano si infilava al quadraro dove spariva. Voleva finirla una volta per tutte con quel nido di vespe, così venne definito il quadraro. E perché al quadraro operavano tante formazioni partigiane e in particolare tre erano quelle più forti, che avevano base nel quadraro: la Banda Rossi, legata al gruppo romano di Bandiera Rossa, la Banda Il Lavoro del Partito d'Azione e infine l'ottava zona del PC, comprendente le squadre gappiste. Pur martoriato dai bombardamenti americani, il quadraro costituiva dunque una punta di diamante della resistenza romana e lungo le sue strade soldati tedeschi e miliziani delle Brigate Nere non potevano avventurarsi se non in forze e bene armati. Il quartiere viene completamente circondato alle 3:30 del mattino e alle 5 si dà il via al rastrellamento, a cui partecipano soltanto tedeschi, SS, unità della Wehrmacht, un battaglione di paracadutisti affluiti dal fronte di Nettuno. I rastrellatori, man mano che procedono, tracciano un cerchio bianco col gesso sulle porte delle città, delle case già perquisite. Ma la spina dorsale del quadraro non viene spezzata. Altri duri colpi vengono portati dai gappisti e dai partigiani delle altre formazioni alle autocolonne tedesche in transito per il fronte, alle pattuglie fasciste che cercano di controllare senza entrare nel quartiere il perimetro esterno di quello che era rimasto un nido di vespe. Non è certo lontano dal vero affermare che dopo Porta Furba per noi in pratica già comincia il fronte, scrive a casa un sergente tedesco d'artiglieria alla fine di quell'aprile. Il quadraro resterà terra proibita per i tedeschi fino all'inizio di giugno. E se la polizia non ce lascia perdere, e se la polizia non ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate, piombo sul piombo. E se cademo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, del sangue sorgerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. 3 maggio, 239esimo giorno dell'occupazione, sciopero. Si fa lo sciopero indetto dai comitati clandestini del CLN e dal comitato sindacale cittadino. Alla manifattura Tabacchi, in via Trastevere, gli operai entrano con un'ora di ritardo. Alle officine Tudini Talenti, 70 operai su 75 abbandonano il lavoro a mezzogiorno. Astensioni dal lavoro allo stabilimento Bagno Traversi, al Mattatoio, al Campo Boario, agli stabilimenti Tovagliati, nelle officine Aniene, Callol, Ferronia, Manfredi a San Lorenzo e al Tiburtino, alle fonderie di San Lorenzo e al cementificio. Alla fonderia Feran si tiene un comizio. I tipografi del Messaggero, organizzati in una cellula dei cattolici comunisti, guidata dal tipografo Antonio Rinaldini e dal giornalista Fedele D'Amico, si astengono dal lavoro in forma massiccia, oltre 100, e ritardano l'uscita del giornale alle 15. Ne vengono arrestati 18 nel corso della notte, alcuni spediti a costruire fossati e camminamenti sul fronte di Anzio e Nettuno, altri avviati in Germania. Questi ultimi riescono però a fuggire mentre il treno che li trasporta è sotto l'attacco di aerei alleati. 11 maggio, con un ordine di servizio, il governatore di Roma, avvocato Giovanni Orgena, impone a tutti i dipendenti del comune di giurare fedeltà alla Repubblica Sociale di Mussolini. L'iniziativa, già di per sé riprovevole, appare assolutamente ridicola, coi tedeschi ormai in disfatta sul fronte di Anzio e le cannonate che fanno da continuo sottofondo alla giornata dei romani. Molti fascisti preparano i bagagli per fuggirsene al nord dietro ai nazisti, ma Orgena inizia così la sua circolare. Tutti i dipendenti di ruolo e non di ruolo del governatorato dovranno prestare giuramento nei seguenti termini: giuro di servire realmente la Repubblica Sociale Italiana nelle sue istituzioni e nelle sue leggi e di esercitare le mie funzioni per il bene e la grandezza della patria. La gran massa dei dipendenti capitolini sabota l'iniziativa e non giura. Parecchi si ammalano, altri svicolano, accampano scuse o si eclissano quando arriva il momento di presentarsi ai capi ripartizione per giurare. Altri si danno addirittura alla macchia. In diverse ripartizioni e in alcuni servizi autonomi, come alla Centrale del Latte, all'ATAG, alla Ragioneria Generale, al Giardino Zoologico, alla circoscrizione del Lido, non giura praticamente nessuno. Il 23 maggio Orgela scopre nel rapporto del segretario generale che ha prestato giuramento alla Repubblica Sociale Italiana soltanto l'8% del personale capitolino. Non fa in tempo neppure a scrivere l'ordine di servizio col quale vorrebbe comminare gravi pene e sanzioni. Gli restano solo una manciata di giorni prima di scappare. E siamo agli ultimi fuochi e alle ultime uccisioni, perché la data del 4 giugno si avvicina, l'avanzata dopo Montecassino, la resistenza tedesca a Montecassino c'è e si avverte proprio ormai la presenza delle truppe alleate alle porte di Roma, ma è pur vero che la resistenza è fiaccata, che le uccisioni, gli arresti l'hanno veramente stremata, come stremata è del resto la popolazione, stremata per esempio dalla fame, come si dice, a Roma manca tutto, insomma, a parte quel po' di borsa nera. Molte sono le persone, per esempio, che vengono ricoverate per aver mangiato cibi avariati, perché ci si attaccava a tutto quanto, estremata anche dai bombardamenti, da questa situazione pesante, perché certamente non al pari di altre città italiane che furono letteralmente semidistrutte, ma anche Roma ha avuto la sua dose di bombardamenti, e in particolare sono stati 53 in totale. Il primo, come dicevamo, è stato quello del 19 luglio 43 a San Lorenzo, che ha colpito in particolare la zona di San Lorenzo. Poi c'è stato quello del 13 agosto del 43, altrettanto grosso, insomma un grosso raid, ma poi altre 51 volte, insomma, gli aerei alleati hanno bombardato la città facendo migliaia di vittime civili, insomma. E tra queste le stragi più grosse che vanno ricordate sono a Piazza Porta San Paolo, in un bombardamento effettuato massicciamente dagli aerei alleati, e rimangono sui binari tre vetture tranviarie vuote con vetri infranti e traforate da centinaia di schegge, una della linea 23 e due circolari esterne. Sulla via Ostense crollano le case ai numeri 19-32, il lato sinistro della strada è invaso da un nero fumo acre e i mercati generali sono completamente a fuoco. Più avanti c'è il cumulo di massi e detriti che era lo stabilimento di Arti Grafiche Salomone. In via del Gazzometro, accanto alla chiesa di San Benedetto, va distrutta anche la tipografia e casa editrice Atena. Tutti i dipendenti muoiono tra le macerie. Colpite case in via del Campo Boario, via Vittorio Bottego alla Garbatella, via Pellegrino Matteucci. In quest'ultima strada una bomba ad alto potenziale cade su un garage, l'autoromessa dei viti poco dopo che una quarantina di persone ne sono uscite. Ma la strage terrificante avviene al Tiburtino e rimarrà uno degli episodi più tragici dell'intera storia dei bombardamenti aerei sull'Italia. Una bomba da 500 libbre centra il ricovero antiaereo in una casa al numero 364 della via Tiburtina, proprio accanto alla fabbrica Fiorentini. Vi hanno cercato riparo 200 operai, perché la fabbrica è priva di rifugio. Le squadre dei vigili del fuoco lavoreranno tre giorni per estrarre le salme e alla fine allineeranno sul marciapiede della Tiburtina 189 bare. E questi sono i massacri, anche da annoverare, appunto, che dovuti all'azione a volte indiscriminata degli aerei americani, insomma. Però ancora va registrata, insomma, l'azione di quello che rimaneva della resistenza romana, e il 17 maggio ce n'è una eclatante nella zona di Bravetta, con un camion targato della Repubblica Sociale, ormai era in vigore, targato Repubblica Sociale Italiana, arranca sull'Aurelia verso Forte Bravetta. Sono le 3 del mattino, a bordo insonnoliti 20 militi della PAI vanno a fare il plotone d'esecuzione al Forte per la fucilazione di 7 partigiani della banda Tommaso Moro, inquadrata nel gruppo comunista di Bandiera Rossa, che erano stati catturati una settimana prima e condannati a morte dal tribunale militare tedesco. Quando il camion rallenta per affrontare la curva leggermente in salita che dall'Aurelio immette sulla via Bravetta, al Forte manca poco meno di 2 chilometri, l'autista scorge in mezzo alla strada 2 soldati tedeschi, uno dei quali leva in alto una paletta stradale rossa. I 2 poliziotti tedeschi si accostano, ognuno a un lato della cabina di guida, e il tenente che era in cabina non fa in tempo neppure ad aprire bocca che si vede per piazzare in faccia la canna di un mitra, e la voce del tedesco gli sibila in perfetto romanesco: devi da fa solo una mossa e te spappolo la testa. Contemporaneamente sbucano fuori dai cespugli che costeggiano l'inizio di via Bravetta altri uomini che, armi alla mano, immobilizzano rapidamente i militi nel cassone dell'automezzo. I 22 della PAI vengono portati in un fossato poco distante, spogliati, legati a due e lasciati a terra. Altrettanti partigiani indossano le loro uniformi, prendono le loro armi, risalgono sul camion che col nuovo autista alla guida riparte verso Forte Bravetta. Il partigiano che si è vestito da tenente e che siede accanto all'autista è Tommaso Moro, nome di battaglia di Vincenzo Guarniera, 32 anni, maresciallo motorista dell'aeronautica militare, datosi alla clandestinità dopo l'8 settembre. Romano pure sangue, nato in una vecchia casa del rione Parione, ha aderito al movimento Bandiera Rossa e formato una banda combattente nella quale sono confluiti molti dei suoi avieri. E siamo al 4 giugno, l'ingresso degli americani, e nonostante insomma l'arrivo degli americani, i tedeschi fanno ancora delle vittime, e sono quelle di La Storta, note anche queste, insomma, che dove scappano, abbandonano le sedi i tedeschi, la folla a Via Tasso irrompe nella famigerata prigione delle SS, libera quelli ancora rinchiusi nelle celle, devasta lui l'edificio. L'ultimo tedesco ha anche abbandonato Regina Coeli, e i secondini italiani aprono tutte le celle dei bracci politici. Intanto è iniziata nelle strade la caccia ai fascisti e alle spie. L'estrabar di Via del Tritone, un locale assai conosciuto come luogo di raduno di tedeschi e collaborazionisti, viene distrutto da una folla inferocita. Squadre di patrioti armati mobilitate dal CNL con la fascia tricolore al braccio cercano di mantenere l'ordine pubblico e snidano a fucilate i cerchini fascisti. Questa notazione non mancherà mai, insomma, che questo avvento immediato del tricolore in funzione di tranquillizzazione. Verso le 20 6 guastatori tedeschi si asserragliano in portone di Via del Corso, vogliono aspettare gli americani per arrendersi. Vengono snidati e costretti a combattere da un gruppo di partigiani ai quali infine si arrendono. A Ponte Margherita, in nottata, 2 paracadutisti della Student lasciati di guardia e ingaggiano un combattimento con le avanguardie americane e vengono presi alle spalle e abbattuti da un gruppo di gappisti della quarta zona, ma i tedeschi in fuga compiono l'ultima strage. Alla Storta, al 15° chilometro della via Cassia, fanno scendere da un camion 14 prigionieri prelevati da via Tasso, li portano in un campo e li ammazzano a raffiche di mitra. Bruno Buozzi tra questi, segretario della CGIL, un polacco Borjan Frederick, membro del comando militare delle Matteotti, e altri membri delle Matteotti, Luigi Castellani, Libero De Angelis e Alberto Pennacchi. Ma c'è da registrare prima di così, insomma, commentare, e lo faremo con una canzone, l'ingresso degli americani, dei liberatori, come erano chiamati, l'ultimo è inutile veramente, e per questo ancora più amaro, uccisione, l'ultima morte per mano dei tedeschi, che avviene la mattina del 5 giugno. Roma sta festeggiando, c'è ancora però un residuo di retroguardie tedesche che stanno minando il ponte che sta sulla Niene, lì sulla Nomentana. e se ne accorge un ragazzino di 12 anni che si chiama Ugo Forno, e viene chiamato Ughetto dai suoi compagni di scuola a 12 anni compiuti da un mese. Una storia sconosciuta ed epica che sembra riassumere in sé, ultima come di una lunga serie di eroismi noti e ignoti, la lotta stessa dell'intera città. Questo Ughetto, insomma, cosa fa? Mette insieme una piccola banda, proprio prende un fucile, si armano come possono e cominciano a sparare su questi tedeschi che stavano minando il ponte, e i tedeschi ovviamente lasciano stare l'opera che stavano portando a termine, cioè abbandonano le mine, ma nella loro ritirata vengono protetti da loro commilitoni che sparano anche con dei mortai, e uno di questi colpi di mortaio colpisce e uccide questo giovanissimo partigiano, potremmo così dire. Ma siamo appunto a celebrare questa entrata degli americani, che entrano dopo tutto questo a Roma, dopo tutto quello che qui abbiamo provato sinteticamente a descrivere, cioè di una città che noi abbiamo detto Roma libera tutti, l'abbiamo voluta chiamare questa trasmissione, perché così, insomma, per raccontare e anche esaltare, insomma, questa storia che si vuole dimenticare, questa storia che si vuole manomettere, che si vuole trascurare e non tramandare ai giovani che oggi si avvicinano e leggono e vedono. E cosa vedono? Vedono sostanzialmente questi americani così spavaldi, così ben nutriti, così grossi, insomma, l'immagine che viene di questi ragazzoni sorridenti, ci mancherebbe, insomma, sempre piacevole, a cui la popolazione romana fa festa, offre fiori, e loro a loro volta danno sigarette, caramelle, cioccolate, insomma, ecco, questa è l'immagine di Roma liberata dagli americani che noi abbiamo voluto infrangere, insomma, no, per raccontarle un'altra, insomma. Già arrivando, mamma, non è vero niente, figlio mio, non ti agitare, eppure sento che sparano, mamma, so fratelli a noi ci vengono a liberare, so fratelli a noi, so fratelli a noi, so fratelli a noi ci vengono. Stanno già morendo, mamma, muoiono i liberatori per poterci liberare, ma mamma spara da su di noi, mamma, lo so figlio mio, ma lo fanno per necessità, tieni a mente sempre, soffra della noi, soffra della noi. Era anche, secondo noi, utile dare un'immagine che per qualcuno sarà vecchia, antica, non più attuale, di una città che è sempre stata molto molto vituperata in tutti i sensi, a parte la Lega, l'Omma Radrona, ma anche perché sede dei ministeri e della politica, come se fosse una responsabilità dei romani e delle romane questa appunto localizzazione. Purtroppo i romani e le romane la vivono e la sopportano come veramente una sorta di calamità, e ci piaceva anche richiamare l'attenzione appunto su quel giuramento alla Repubblica Sociale Italiana a cui si voleva chiamare i dipendenti comunali, che risposero appunto nella maniera che abbiamo detto, vanificandola, e anche appunto in occasione di una lotta che vede adesso protagonisti e protagoniste proprio quei dipendenti e quelle dipendenti. Ma noi non la chiudiamo qui questa nostra trasmissione su Roma Libera Tutti, perché dopo il 4 giugno, nonostante appunto l'arrivo festoso salutato dalla popolazione romana degli angloamericani che entrano a Roma, in questa città eterna, anche loro, insomma, ci sono qui descrizioni di vari autori su questi episodi anche molto colorite e interessanti, perché Roma dà successivamente un altro segnale molto forte, no? A tutti i resistenti, a tutti coloro che non ne potevano più proprio sia del fascismo che del nazismo, ma un segnale in un episodio trascurato dalla storiografia ufficiale, anzi del tutto omesso, perché è un episodio imbarazzante per molti, imbarazzante per quelli che pensano che la resistenza sia stata solo pagine di gloria, di atti eroici, di atti ispirati a un'etica con una retorica immensa, e non anche una cruda, crudissima lotta fatta anche di odio e di vendette, insomma, che hanno attraversato questo paese, hanno attraversato tante storie che non riguardano solo questa città, ma che questa città ne ha data una in particolare. Chi non pensa a tutte le trattazioni che hanno riguardato l'eccidio susseguente al l'eccidio dei partigiani a Piazzale Loreto, che poi ha provocato nello stesso posto l'uccisione e l'esposizione al pubblico della salma di Bussolini, di Claretta Petacci, di Pavolini, insomma di altri gerarchi, che è stata sempre interpretata come un atto di ferocia. E indubbiamente aveva della ferocia, insomma, e a noi non piace sottovalutarlo, insomma, non ci tiriamo indietro da questi aspetti, e quindi così come non ci tiriamo indietro da tutte le cose che hanno riguardato il triangolo della morte cosiddetto, no? Di tutti gli omicidi che sono avvenuti dopo il 25 aprile 45, esecuzioni sommarie di collaborazionisti o di fascisti che venivano fatte da singole persone, ex partigiani o non ex partigiani, anche per motivi personali. Ecco, Roma ne registra uno di questi episodi, anzi è il primo, ed è grosso, un episodio grosso che tra l'altro avviene in un momento in cui, essendosi spostato il fronte militare verso nord, che si va a stabilizzare, diciamo, all'altezza della linea gotica, è un periodo, e quindi siamo verso l'autunno del 1944, è forse il periodo peggiore della resistenza italiana, peggiore dal punto di vista, diciamo, della possibilità di fronteggiare fascisti e tedeschi. Perché? Perché lo scrive Battaglia e lo riprende Dario Pacino nel suo libro I Senza Patria, Resistenza Ieri e Oggi, chiamandolo la più tragica pagina della resistenza, proprio perché lì avvengono in quel periodo le stragi più grossi, i rastrellamenti più feroci fatti da tedeschi e fascisti. Avviene la strage di Sant'Anna di Stazzema, avviene Marzabotto, avvengono tutte queste cose. Perché avvengono? Perché si era indebolita la resistenza nazionale, la resistenza dei partigiani, perché era forte, si era rafforzato il dispositivo repressivo nazifascista, o per un altro motivo? Bene, la valutazione di Dario Pacino che dà di quel periodo è questo: una grossa colpa, però intenzionale, non casuale, viene proprio dagli alleati, che vogliono impedire a tutti i costi che la resistenza prenda sempre più piede, che il nord venga effettivamente liberato dalle forze partigiane. E allora ecco che a novembre del 44, ma già prima, a novembre del 44 ce n'è la diciamo così sanzione ufficiale, con un proclama firmato dal generale Alexander, che era il comandante in capo delle forze alleate in Italia, e viene trasmesso un proclama per radio, appunto, in cui si dice: la campagna estiva iniziata l'11 maggio e condotta senza interruzioni fin dopo lo sfondamento della linea codica è finita, inizia ora la campagna invernale. E si dice e si raccomanda ai patrioti che avrebbero di cessare la loro attività precedente per prepararsi alla nuova fase di lotta e fronteggiare un nuovo nemico, l'inverno. Voi capite che questo significa, e così fu nei fatti, l'interruzione dei lanci, dei rifornimenti, delle armi, dei viveri che venivano date alle brigate partigiane sui monti dell'Appennino e non solo, e significa lasciare queste formazioni partigiane in balia della repressione nazista, proprio perché il fronte si era fermato sulla linea gotica, non avanzava e soprattutto si erano fermati questi rifornimenti alle formazioni partigiane. E allora ecco che qui noi, in questo quadro, in questo contesto, inseriamo l'episodio di cui parlavamo, che accade a Roma ancora una volta, insomma, ancora una volta questa città strana, che è piena di contraddizioni ma anche piena di slanci e di episodi impensabili. Insomma, siamo a settembre, esattamente il 18 settembre del 44, sono le 9 del mattino ed è convocato, previsto, programmato il processo a carico di Pietro Caruso. Pietro Caruso era l'ex questore della capitale, responsabile, insomma, ovviamente, pensate, il questore della capitale nel periodo dell'occupazione nazista, non solo prima ma in particolare in quel periodo, responsabile di, insieme ai tedeschi, insieme a tutti gli altri, di qualunque cosa fosse successa, di qualsiasi atto repressivo, e in particolare della formazione delle liste di quelli che furono fucilati alle fosse ardeatine. Insieme a lui devono essere processati Roberto Occhetto, suo segretario particolare, e avevano come capi di imputazione decine di omicidi perpetrati dai repubblichini e dalla compilazione, insieme a Herbert Kappler e al ministro degli interni Guido Buffarini Guidi, della lista di persone appunto destinate ad essere uccise alle fosse ardeatine. Donato Carretta, che era il direttore del carcere romano di Regina Coeli durante l'occupazione tedesca, aspetta a Palazzo di Giustizia di testimoniare al processo contro Pietro Caruso. Carretta era in attesa di giudizio depurazione per l'incarico rivestito tra l'armistizio e la liberazione, ma l'uomo era astuto e tempestivamente si era procurato delle benemerenze lasciando uscire di prigione alcuni politici importanti, facendo il doppio gioco fino al punto di tenersi in contatto con il CNL. C'è una gran folla al Palazzo di Giustizia, al Palazzaccio come lo chiamiamo noi, che preme per entrare nell'aula e assistere alla condanna di Caruso. Si sente gridare: accoppamolo, senza tribunali e senza sentenze. La folla è ormai padrona dell'aula, ha invaso le scale e i corridoi del palazzo. La scarsa forza pubblica non riesce a trattenerla. Vogliono prendere Caruso e farne giustizia sommaria. Il colonnello americano John Pollock, capo della polizia alleata, d'accordo con Mario Berlinguer, commissario aggiunto per la punizione dei delitti fascisti, ha un'idea che ritiene risolutiva. Oggi il processo non si celebra, viene rinviato a data da destinarsi. Se credeva di placare il furore popolare, ha preso un grosso granchio. All'annuncio la folla si scatena, è convinta che si voglia salvare Caruso. Così, tra urla e spinte, in molti si avventano verso il banco del presidente, lo travolgono, si precipitano sulla saletta dove è rinchiuso il questore. Carretta ha la sfortuna di trovarsi là in mezzo, proprio in quel drammatico momento. È una donna vestita di nero, puntando il dito contro di lui, gli urla: assassino, sei tu che hai consegnato mio figlio ai tedeschi, che hai fatto uccidere mio figlio, vigliacco mascalzone. È la scintilla. La donna si chiama Maria Ricottini, suo figlio è stato fucilato dai tedeschi un mese prima della liberazione di Roma. Carretta era il direttore di Regina Coeli, era il custode di suo figlio, lei gli ha parlato e tuttavia il ragazzo non si è salvato. 100 mani calano sulla testa di Carretta, che è colpito ferocemente a pugni e calci e con le sedie che gli vengono fracassate sulla testa. Gli strappano i vestiti, lo calpestano, lo inchiodano a terra. Lui riesce ad alzarsi e a fuggire all'interno del palazzo, a chiudersi in una saletta nascondendosi sotto un tavolo, ma lo scoprono, lo trascinano verso una finestra per gettarlo nel vuoto. Un tenente dei carabinieri tenta di salvarlo infilandolo prima in un tassì, poi in una camionetta militare, ma è inutile. Lo scaraventano nel Tevere. Lui tenta di nuotare e subito una barca si stacca dalla riva e lo raggiunge. In due lo colpiscono con i remi sulla testa, si allarga sull'acqua la macchia di sangue e infine il cadavere è tirato in secco. Eppure ancora non basta. Trascinato per i piedi sul selciato fino a Regina Coeli, Garretta è appeso a testa in giù all'inferriata del carcere. Questa sinteticamente, con un libro molto più approfondito, è la ricostruzione che fa Gabriele Ranzato in un libro edito dal Saggiatore che si chiama appunto Il linciaggio di Garretta. Ma perché l'abbiamo voluto raccontare? Perché c'era in questo discorso della liberazione di Roma e della liberazione in genere questo sentimento inespresso di giustizia che saliva da tanta parte della popolazione italiana, soprattutto da chi aveva patito ogni sopruso e soprattutto aveva patito nelle proprie famiglie uccisioni, maltrattamenti, torture, insomma, no? E tutto questo sembrava essersi annebbiato nella festa della liberazione di cui ricordavamo prima e che ancora oggi ci tramandano appunto le immagini di questi americani vincenti che vengono a liberarci e che tutto finisce nella gloria e nella festosità delle persone, delle folle, delle genti che li accolgono. Beh, non è così, insomma, ecco, questo episodio richiama una realtà, no? Dovrebbe essere un monito, perché non si può semplicemente dire beh, tutto finito adesso, c'è ancora qualcosa che cova nell'animo delle persone, nelle persone colpite, c'è è anche un desiderio di vendetta, ma soprattutto è una voglia di giustizia, una voglia di giustizia che in questo paese è stata sempre negata. E perché se pensiamo solo al fatto che l'amnistia concessa ai fascisti in questo paese col primo governo nazionale non più monarchico, non più fascista, insomma, vede proprio il guardasigilli Palmiro Togliatti concedere questa amnistia, insomma, no? E questo è un segno, e questo episodio che anticipa poi, che doveva essere un monito, che pur nella sua ferocia e brutalità, perché queste descrizioni ovviamente fanno effetto, così come possono fare effetto le altrettante feroci descrizioni dell'esecuzione di Mussolini e della successiva esposizione delle salme dei gerarchi a Piazzale Loreto, e che fanno tanto indignare, no? le anime della destra ma anche della sinistra, perché questo richiamo all'etica, beh, insomma, questa crudezza di questi episodi dovrebbe sempre essere un richiamo, no? Per chi poi pensa di amministrare la giustizia, sia esso un magistrato o sia esso un uomo politico che in momenti della storia come questo poi si apprestano a, diciamo, riportare un paese intero a una sorta di convivenza civile, per non dire di pacificazione. Ma per non trovare altre risposte, altri commenti da fare a chi lungamente, insomma, e ancora oggi, no, usa questi episodi, questo di Garretta poco per la verità, ma quello di Piazzale Loreto innumerevoli volte, così come quello di tutti i fascisti che sono stati maltrattati, diciamo così, o giudicati tali, insomma, da tanti commentatori. Leggiamo qui le brevi stralci di una lettera che scrisse un partigiano nel 2003 al presidente della Repubblica Ciampi e ai due presidenti delle Camere dell'epoca, uno era Casini, l'altro in questo momento non lo ricordo. Perché scrisse questa lettera questo partigiano? Perché era uscito da poco il libro di Giampaolo Pansa, Il sangue dei vinti, dove si faceva appunto il panegirico di questi poveri fascisti uccisi, maltrattati, anche con episodi come questo di Garretta, insomma, dai vincitori, quindi da questi resistenti, da questi comunisti, perché poi insomma tutto veniva un po' ricondotto sotto le bandiere ideologiche. Beh, questo partigiano, tra l'altro un partigiano particolare, perché fu uno di quelli che non smise di ammazzare i fascisti con l'avvento della liberazione, ovvero col 25 aprile, ma seguitò e per questo fu condannato a 6 anni di carcere, e scrisse questa lettera perché era veramente indignato da questo libro. È una lunga lettera che non abbiamo qui il tempo di leggere tutta, ma di cui prendiamo questi spunti. Dice: illustre signor Presidente, sono nato il 25 marzo 1926, ex comandante partigiano, il padre, lo zio, un cugino trucidati dai fascisti repubblichini, 3 ferite riportate in diversi combattimenti contro i nazisti, 6 anni di carcere per avere continuato la lotta di liberazione al fine di rendere giustizia ai nostri morti ed un'infinità di persecuzioni poliziesche tuttora perduranti. Combattente contro il fascismo coloniale portoghese insieme al presidente Samora Machel. 3 menzioni per medaglie al valore mai assegnate. Tra l'altro, una di queste menzioni riguardava un episodio in cui questo partigiano da solo fece fronte e respinse una compagnia intera di tedeschi sui monti dell'Appennino romagnolo. Lui operava nella zona di Forlì. Di quello che vedemmo, dice ancora la lettera di questo partigiano al Presidente della Repubblica, di quello che vedemmo nelle nostre scorrerie di garibaldini, posso solo dire che assistemmo allo spettacolo di folle immense che partecipavano ai processi sommari ed all'esecuzione di quelli che loro chiamavano i boia. Tanto era l'odio che avevano seminato dappertutto, con gli assassini, le stragi, gli stupri, le rapine, le torture ed ogni specie di delitto. Solo per citare un esempio a me noto nei dettagli, in provincia di Forlì, dal 15 settembre 43 al 15 novembre 44, durante 13 mesi vi furono 55 assassini e stragi per un totale di 492 assassinati, una media di quasi 38 al mese. Mentre nel nord Italia, dove la carneficina durò 6 mesi in più, il sangue dei martiri e degli innocenti fu infinitamente più copioso. Dopo la liberazione, ovunque gli si offerse l'occasione, il popolo si fece giustizia. Quanto più feroce e assatanato era stato il collaborazionismo dei mostri locali, tanto più tenace era la volontà popolare di una giusta retribuzione. In relazione all'odio seminato in tutto il mondo, avendo al servizio dell'invasore massacrato gente inerme, donne, bambini, vecchi, spesso bruciati vivi. Ciò nonostante, in un'intervista apparsa su un quotidiano il giorno 10 corrente mese, la lettera è del dicembre 2003, il solito giornalista, e qui si riferisce a Giampaolo Panza, fa il panegirico di un suo libro concernente quei fascisti uccisi dopo il 25 aprile, morti delle quali piange l'orrore. Ma altro è morire e altro è parlare di morte, e pancia piena non sa della vuota. Noi partigiani vedemmo lo scempio perpetrato dalle SS fasciste a Tavolicci, con 69 bruciati vivi, tra i quali 19 bambini, a solo scopo di rapina, e ogni volta che sugli Appennini ritornavamo ad occupare le precedenti posizioni non ci restava altro che constatare gli orrori perpetrati dai repubblichini e morderci le mani, non potendo scendere ad attaccarli nei loro covi cittadini, difettando di armi efficaci per batterci contro la Wehrmacht in campo aperto, non forniteci dagli alleati nonostante le nostre pressanti richieste. Perciò quel continuo stillicidio di assassini rendeva e rende ancora incredibile qualsiasi pretesto dei fascisti e dei loro servi di non averne mai saputo nulla e men che meno di avervi mai partecipato a queste stragi e a queste efferatezze. Quindi valga per tutti l'ammonimento che un compagno partigiano incontrato in carcere mi raccontò aver espresso nei confronti di coloro che gli si dichiaravano del tutto innocenti. Lo so bene che tu non hai fatto niente di male a nessuno, come tutti gli altri, anzi che ne hai salvati tanti, ma stai tranquillo, tu sei capitato in buone mani, io uccido solo gli innocenti, ai criminali provvedono gli altri.